11.06 prosegue la mattinata informativa di Radio Blackout. Come ogni martedì torna in onda Parole Ribelli, la trasmissione a cura del collettivo universitario autonomo. Un buongiorno a tutti e a tutte da Francesca. Al momento sono da sola questi microfoni, ma in attesa di Eddie, che a breve dovrebbe raggiungere lo studio. Sarò qui a tenervi compagnia fino alle 12.45 circa. Vi ricordo come di consueto anche i contatti per scrivere a Radio Blackout. Per il telefono fisso potete chiamare lo 011 249 5669, per gli sms il numero a cui scrivere 346 667 3263. E sulle note dei Chinese Man andiamo allora a vedere quelli che saranno gli argomenti per la puntata di quest'oggi. Inizieremo con una diretta, un approfondimento su quello che sta accadendo alla Cavallerizza di Torino, dove da qualche settimana è nata un'assemblea cittadina per difendere quello spazio dalla, sembra ormai certa, svendita da parte del Comune, che è appunto in attesa di qualche acquirente, dopo appunto aver chiuso lo spazio, compreso il teatro stabile che c'era all'interno ormai da qualche mese. Quindi ci faremo un po' raccontare quello che sta succedendo, anche quali sono le iniziative in programma rispetto a questa situazione. Qualche aggiornamento poi dalle nuove occupazioni della scorsa settimana. In particolare ci faremo raccontare un po' della nuova occupazione in via Legnano. A questo proposito ricordiamo che in tutte e tre le occupazioni, ovviamente, in queste prime settimane sono ben accetti aiuti di qualsiasi tipo, servono ovviamente tutte le cose, insomma, che possono tornare utili in una nuova occupazione, quindi coperte, materassi, stufette, lenzuola e stoviglie. Gli indirizzi sono via Legnano 5, via Madonna delle Salette 12/A e via Spano 41 bis. Quindi per chi volesse passare anche solo a fare un salto, a portare un po' di solidarietà, ovviamente la presenza di tutti è ben accetta. Ci sposteremo poi a Bari, invece, dove dopo lo sgombero di Villa Rot di pochi giorni fa, sabato notte, un corteo spontaneo di giovani e cittadini di Bari ha appunto ripreso le strade della città, andando ad occupare per una sera uno spazio, rilanciando poi già per una data futura in cui andare a riprendere Villa Rot. Chiuderemo, se riusciamo, invece con Napoli, dove sabato mattina c'è stata una contestazione da parte di studenti medi e universitari al presidente della regione, che era stato invitato in un liceo privato per un dibattito sulla terra dei fuochi, ma che ha trovato insomma un'accoglienza degna ad attenderlo. Questo più o meno quanto. Ricordiamo anche che siamo ormai allo scadere della settimana di mobilitazione dal 15 al 22 gennaio, quindi ovviamente i microfoni saranno aperti per eventuali aggiornamenti del caso anche dalla giornata di oggi. Insomma, l'informazione si è occupata di dare conto di quanto è accaduto ieri, che era la giornata insomma un po' più calda della settimana. Questo appunto più o meno tutto, io vi lascio a un po' di musica prima di iniziare con le prime dirette. 22, dopo una breve pausa musicale, torniamo in onda con Parole Ribelli. Come annunciato poco fa, iniziamo con una diretta su quanto sta accadendo qua a Torino alla Cavallerizz. Per farlo abbiamo raggiunto a questi microfoni Chiara, che intanto saluto. Chiara, ci senti? Ciao, sì. Ok, ciao, un saluto. Ti chiederei appunto di, insomma, partire proprio dall'inizio, spiegare cosa sta succedendo alla Cavallerizza, quali sono le mire del comune rispetto a quello spazio e come è nata questa assemblea cittadina che ormai, insomma, da diverse settimane si sta occupando invece di provare a immaginare un destino diverso per quello spazio. Certo, Sì, dunque, l'assemblea cittadina si chiama Assemblea Cavallerizza 1445, ha questo nome poetico perché l'orologio della cavallerizza è fermo a quell'ora, allora si vorrebbe farlo ripartire insieme, no? L'assemblea si è ritrovata da un paio di mesi ormai, quasi 2 mesi, perché a fine novembre abbiamo sentito della decisione definitiva del Teatro Stabile di abbandonare i teatri della Cavallerizza. No? La Cavallerizza è questo enorme edificio in mezzo a Torino, che ormai crolla praticamente a pezzi perché è frutto di anni e anni e decenni di lento degrado e abbandono da parte delle istituzioni che però mantenevano giusto qualche parte messa un po' meglio per farci il teatro. E appunto era gestita dal Teatro Stabile di Torino, che a ottobre ha cancellato tutta la sua programmazione da lì e ha preso tutti i materiali scenici che utilizzava e se n'è andato. Il Teatro Stabile aveva in gestione le sale. Praticamente cosa è successo? Il mondo teatrale si è accorto di questo fatto e ha deciso di cominciare a incontrarsi lì davanti. Dico il mondo teatrale perché subito sono partiti i teatranti, gli operatori della cultura, perché comunque quel luogo, a parte essere gestito dallo stabile, era anche uno spazio che forniva sale, per rappresentazioni di tutte altre compagnie che non avevano nulla a che fare con lo stabile, no? E quindi in primo luogo si sono un po' messi per primi i teatranti, ma in realtà poi si è creata un'assemblea cittadina perché la questione della cavallerizza non è una questione soltanto legata ai teatri che sono stati dismessi, ma dell'intera area, che è un'area che fino agli anni Ottanta ospitava numerose famiglie, numerosi appartamenti e quindi era sede proprio di associazioni e di famiglie. Ecco, i cittadini hanno cominciato a pensare che cosa possa diventare quel posto lì. Il comune di Torino, di fatto, la sta svendendo perché poi la notizia è arrivata a breve, nel senso che è stata inaugurata un'ulteriore asta, perché sono anni che la Cavallerizza è messa all'asta per cercare di coprire questi buchi di Certo. bilancio comunali e quindi adesso attualmente la Cavallerizza e tutta l'area che la circonda è all'asta per 12 milioni di euro, aste che vanno sempre deserte, però nel frattempo lo stabile, cioè tutta la struttura ha cambiato proprio forma giuridica perché da bene demaniale è diventato è di una società di cartolarizzazione, quindi a tutti gli effetti è cominciato l'iter della privatizzazione e questa cosa ai cittadini dell'Assemblea del Cavallerizza 1445 non va assolutamente. E quindi stiamo facendo questo, ci incontriamo con varie cadenze, prima simbolicamente sempre lì davanti, prima di Natale, poi dopo Natale stiamo facendo delle riunioni che continuano e sono delle assemblee sempre aperte e pubbliche, ma che sono più volte a discussioni di tipo logistico cercare di capire che cosa si possa fare sia per bloccare la vendita e sia per sensibilizzare il resto della cittadinanza su questa roba che è un bene dell'UNESCO ed è in mezzo a Torino e nessuno lo sa. Ed è ovviamente in svendita come tante altre cose della città. Sì, sicuramente poi, appunto, come dicevi tu, è uno spazio che fa gola a molti, insomma, per la sua collocazione, per lo spazio stesso. Dicevi che appunto l'iter per la svendita è di fatto iniziato. Il comune su questo non ha, insomma, non è stato molto chiaro, però anche dagli ultimi avvenimenti, penso allo sgombero per mano dei vigili urbani la scorsa settimana di alcuni senzatetto che trovavano dimora lì, sembra invece far pensare che magari qualcosa si stia muovendo. C'è qualche idea su chi sia effettivamente un Allora, possibile acquirente dello spazio, se andrà in mano a privati? sì, dunque, ci sono delle voci, ma in realtà non si capisce bene. Sembra però molto vicino a questo ipotetico acquisto del grande acquirente, ormai lo chiamiamo così perché è una figura mitologica, questo grande acquirente che dovrebbe venire e fare della cavallerizza, praticamente riuscire a fare tutto quello che vuole, mantenendo però l'aspetto storico caratteristico della cavalizia. Mi chiedo come si faccia a costruire un parcheggio, ad esempio, su alcuni atti comunali c'è scritto che è possibile la costruzione di un parcheggio dietro l'auditorium RAI, cose di questo genere. Vedremo cosa si riuscirà a fare. Non si sanno nomi, non si capisce, anche perché il valore di mercato anche di questo stabile è difficile da capire, perché vale tantissimo, però in condizioni veramente di degrado, ci sono intere parti abbandonate da anni, quindi per questo si è abbassato, cioè 12 milioni non sono così tanti, tra l'altro, per uno stabile così prezioso, erano le stalle, poi voglio dire, è un bene dell'UNESCO, questa cosa non è scritta da nessuna parte, è un bene tutelato dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, e nessuna atto delle sedute comunali riporta questo fatto, quindi noi stiamo svendendo una roba che è patrimonio dell'umanità e non ce ne stiamo veramente accorgendo. Credo che comunque soltanto un privato possa provare a comprare questa struttura, perché a livello comunale, o almeno quello che ci dicono, è che il comune non ce la fa proprio. È uscito di recente un articolo con la direttrice della fondazione dello stabile che diceva che è fiducioso nella giunta di Fassino e che sicuramente chi comprerà quella cavallerizza sarà in grado di ridare il teatro ai cittadini, eccetera, in un momento in cui tra l'altro il mondo del teatro sta venendo riformato, perché cambieranno gli statuti, i numeri degli stabili in Italia, quindi c'è tutto un discorso di anche sicuramente anche lo stabile aveva un grande interesse, però evidentemente questa grande perdita economica, perché costa molto mantenere la cavallerizza, mantenere come spazio molto grande, quindi era più forte la perdita economica dello stabile rispetto ai guadagni ad ora, e quindi se ne sono andati, però anche lì dicono che forse torneranno, non si capisce, insomma noi siamo qua che cerchiamo di cominciare un discorso ampio dal basso, chiedendo alle persone che cosa vorrebbero da quel posto lì, che cosa si immaginano, stiamo raccogliendo le storie di chi ci abitava, di chi è stato sfrattato, di chi ha visto quel posto cambiare mille facce, stiamo raccogliendo tutti i dati per capire se veramente esiste, come qualcuno sostiene, ma dobbiamo ancora indagare, dei passaggi non del tutto chiari, per non dire illegali, tra i vari cambiamenti di statuto della cavallerizza, cioè da bene demaniale a bene cartolarizzato, e quindi bisogna capire nei vari passaggi di proprietà che cosa è successo e se tutto è andato liscio, cosa molto probabilmente non è stata così, e quindi stiamo capendo questo, quindi siamo un po' sull'analisi e poi ovviamente fantastichiamo un pochettino su che cosa potrebbe essere. Non abbiamo alcuna intenzione di avere un progetto che sia legato per forza al teatro, questo è molto importante, perché quello è un posto della città, non degli attori, e quindi è per questo che l'assemblea è di tutti, ci sono associazioni culturali, operatori dello spettacolo, centri sociali, ci siamo tutti, lì non ci importa assolutamente di mettere nessun tipo di scopo o cappello, non abbiamo ancora uno scopo, cioè il nostro unico scopo è fermare la vendita e far sì che la popolazione si riappropri di quello stabile, anche politicamente, quindi con tutti i mezzi, anche pensando a eventuali referendum o raccolta firme per abrogare questa decisione, e poi da lì capire se questo percorso collettivo ci fa costruire un'ipotesi condivisa di gestione, non mi piace dire la parola gestione, però di organizzazione di quegli spazi, anche perché tutti gli appartamenti, sfitti, insomma ce n'è e ci va un sacco di gente, perché lo spazio è veramente grande, e quindi ci siamo divisi, lavoriamo sulla comunicazione, sulla quello che fanno le assemblee normalmente, certo. E andiamo avanti così. Sì, insomma, è importante anche quello che dicevi su provare ad allargare. Sicuramente questa è una situazione molto particolare, però la questione degli stabili abbandonati in questo momento a Torino è sicuramente centrale. Poi appunto arriviamo da una settimana che soprattutto a Torino ha visto numerose nuove occupazioni, quindi insomma un discorso sicuramente molto attuale, quindi provare anche a connettersi con altre esperienze che, anche se sotto altri punti di vista, però lavorano su questa questione, mi sembra sicuramente un'ottima scelta. Se vuoi aggiungere altro, ovviamente i microfoni sono aperti, altrimenti ti chiederei appunto di ricordare l'appuntamento dell'assemblea per chi fosse interessato a partecipare. Sì, volevo ricordare noi abbiamo per ora come canale più diretto una pagina Facebook che si chiama Assemblea Cavallerizza 1445, con i due punti tra il 14 e il 45 come l'orario. Chiunque volesse dare una mano, essere presente lì, noi mettiamo tutto il materiale che abbiamo, mettiamo e pubblichiamo le date delle assemblee. Adesso fra due settimane, ma è ancora da confermare e sarà confermata tramite Facebook, c'è l'assemblea plenaria dove i vari gruppi che si sono divisi per competenze, chi ricerca nei vari ambiti, faranno il loro resoconto. Quindi l'assemblea è fra due settimane, un'assemblea più ampia, però comunque tramite quella pagina scrivete, contattate, noi aggiungiamo anche le mailing list interne o comunque ci teniamo in contatto, ecco. Va bene, Chiara, io ti ringrazio, sei stata molto chiara per il momento, ti saluto, rimando quindi anch'io al gruppo Facebook Assemblea Cavallerizza 14:45, speriamo insomma di risentirci anche nelle prossime settimane con nuovi aggiornamenti. Volentieri, grazie, ciao. Un saluto, ciao. E allora, questo per quanto riguarda l'assemblea della Cavallerizza. Nel corso della diretta sono arrivati un paio di messaggi, uno segnalava che i vigili urbani fermano in via Don Bosco all'altezza di Corso Principe Oddone, quindi chi fosse nei dintorni Cisti. Un altro messaggio invece è arrivato poco fa, ci informa che l'ufficiale giudiziario è arrivato in via Levi 1 a Settimo Torinese per sfratto esecutivo, adesso cercheremo di metterci in contatto con il numero che ci hanno lasciato per farci dire meglio cosa sta accadendo. Nel frattempo vi lascio a un po' di musica, poi torniamo subito in diretta. mia tela, con la calma di Mandela, fuoco il senso della mia esistenza in terra. Non so spiegartelo, ma farlo rende liberi, talmente quanto schiavi questi personaggi finti, sì. Io prendo il lato buono, sanno già chi sono, uno di piazza, con la battuta pronta e il fumo buono. Saper vivere, vuol dire saper capì qual è il tuo limite, capì che non ce n'hai se sai resistere. Io godo con la canna e la mia donna a fianco, il sole che mi scalda è un compagno di banco. Cresciuti Rocky per provare a battere d'anco, chiamami uomo della via, uomo di campo. Domani mi sveglio pensando ad essere il meglio, volendo riempire il foglio prendo relax only. E se sto fuori sto meglio che chiuso in stanza, all'inferno cammino in strada e sto attento, non c'è relax, vedi? Non c'è un momento, no, che questa vita si ferma, forse cerchiamo conferma, zero relax. Nazione come caserma, tutto bloccato, si ferma, muro di macchine, aspetta, voglio relax. 5 minuti di stop, 7 su 7 lo so, non posso dirtelo mo, voglio relax. Un obiettivo ce l'ho, l'ho visto e spingo ma mo, voglio relax, voglio relax. Mi alzo la mattina già bello stressato, pure con una vacanza non riprendo mai fiato. Servirebbe quasi un anno di Maldive per riprendermi, ma invece che distendermi sto sempre più incazzato. Vorrei solo più relax tra i fumi della città, ma per trovarlo devo fumare weed in quantità, sei di che parlo. Vorrei stare solo un po' tranquillo, ma invece che farlo sto qua che strillo. Cerco un oasi sto deserto senza acchiapparlo, aspetto riparto, nel frattempo stento un infarto. Sono un gavettone di stress, non mi rilasso manco se fumo davanti a Best. Talmente esplosivo che metti il disco nello stereo, salti in aria a casa del vicino. Non mi rilasso manco se m'ammazzi, ho fatto l'abitudine a camminare tra i pazzi. Non c'è un momento, no, che questa vita si ferma, forse cerchiamo conferma, zero relax. Nazione come caserma, tutto bloccato, si ferma, muro di macchine, aspetta, voglio relax. 5 minuti di stop, 7 su 7 lo so, non posso dirtelo mo, voglio relax. Un obiettivo ce l'ho, l'ho visto e spingo ma mo, voglio relax, voglio relax. C'è il caos dentro, attendo il deragliamento, sto mondo è sbagliato, troppe distanze, troppo elevato il grado di quanto sto dissociato, il prezzo che ho pagato non basta, e in più ste paranoie non passano, buttano giù, coltivo incendi, dubbi, paranoie, ansie, ripongo nel mio prossimo speranze false, stupide illusioni, manie, svariate delusioni e drastiche reazioni ad allergie, antipatie a pelle, notti senza stelle, segni che poi restano per sempre come il sangue sulle pende di certe leggende, mando baci come braci, ma un grosso vaffanculo a chi si arrende. Probabilmente non mi avranno come mi hanno in mente, probabile che scagliano perché è così da sempre. E mentre metto a punto il piano per la caccia, mi stampo in faccia un po' di disappunto, ma niente, accumulo stress, consumo rabbia e sdegno, altero parametri, casco in mezzo a baratri che io stesso disegno, ma una sola sorpizza fai un'altra colpa andata a segno. In bilico su funi, fili sottili mentre seguo traiettorie ostili del mio ego, io con lune storte in cielo il caos dentro, attendo il deragliamento, sto mondo è sbagliato, troppe distanze, troppo elevato il grado di quanto sto dissociato, il prezzo che ho pagato non basta, e in più ste paranoie non passano, a braccia aperte sopra funi tese, sospese in mezzo al cielo mentre tutto va in frantumi e non so più che cosa è vero, la gente che la guardo e non capisco, la gente che gli parla non capisce e lo intuisco, demolisco e poi ricostruisco, metto in scena melodrammi, perdo chili mentre mando in fumo grammi, un bilico su fili senza ali, perso in mezzo ai libri e trovo solo equilibri che non restano mai tali, tra me e il mondo. mondo, distanze abissali, questione di stile, di orari, di patti sempre troppo poco chiari, mentre gioco l'ennesima partita che perdo di poco ai tempi supplementari, conto i minuti, colleziono voti contrari, cibi scaduti e sorrisi artificiali, stress da tempesto ormonale, e poi la pace, la diete come dopo i temporali, chi mi dico su fumi, fili sottili mentre seguo, traiettorie ostili del mio ego, io con lune storte in cielo il caos dentro attendo, il deragliamento, sto mondo sbagliato, troppe distanze, troppo elevato il grado, di quanto sto dissociato, il prezzo che ho pagato non basta, e in più, ste paranoie non passano, buttano giù. E 46, torniamo in diretta su Parole Ribelli. Nel frattempo è arrivata Eddie che ha sfidato le insidie della metropoli ed è riuscita a raggiungerci. Ciao a tutti e tutte. E proseguiamo con le dirette di questa mattinata. Come avevo annunciato in apertura, andiamo a raccontare un po' quello che sta succedendo a Bari dopo lo sgombero di Villarot avvenuto pochi giorni fa. Sabato sera un corteo di diverse centinaia di persone si è ripreso le strade della città, andando poi ad occupare per tutta la notte uno spazio, ma ci facciamo raccontare meglio da chi quella sera era presente. Abbiamo in collegamento Giulia, che saluto. Ciao, ci senti? Ciao, sì, sono qui. Ecco, un saluto. Allora, ti chiederei un po' di fare il punto della situazione alla luce appunto dello sgombero, di cui sicuramente si sarà anche già parlato su queste frequenze, ma poi soprattutto insomma delle prime risposte che sono state date a partire da sabato sera. Allora, c'è tantissimo da dire, ma cercherò di essere breve. Villarot martedì mattina è stata sgomberata senza alcun preavviso, per cui due anni di vita, di casa, di spazio sociale hanno dovuto far fagotto in poco più di 10 minuti e sono state sbattute fuori. E fin da subito è arrivata una solidarietà incredibile da parte della città e del vicinato. Se pensiamo che un martedì mattina lavorativo X fuori dai cancelli c'erano quasi un centinaio di persone accorse fin dalla mattina presto, e che i vicini, le persone che abitavano proprio nei palazzi di fronte sono scesi a protestare contro la polizia, contro lo sgombero, ci dà la misura di quello che Villarot ha costruito in questi due anni, che assolutamente si sta riversando con una forza incredibile in una serie di protesti che Bari non vedeva forse da 20 anni, e quindi siamo assolutamente stupiti noi stessi di quello che sta accadendo, ma soprattutto ci sentiamo molto più forti per rilanciare sempre più in alto. Il giorno stesso dello sgombero c'è stata, in maniera assolutamente auto-organizzata da parte degli artisti che sono stati attivi all'interno della villa in questi due anni, c'è stato un pomeriggio e una serata di musica che ha raccolto circa 200 persone fuori dai cancelli fino a l'una di notte. Il giorno dopo è stato rilanciato con un pranzo sociale, un'assemblea, il giorno dopo ancora tantissima gente era lì fuori per protestare contro la muratura, e poi sabato c'è stata questa bellissima serata che è cominciata con un'assemblea nel pomeriggio, poi è continuata con uno spettacolo di burattini per i bambini del quartiere, poi con teatro e musica, e alle 11:30 circa, in maniera assolutamente spontanea, senza nessun tipo di disgregazione, esattamente la stessa gente che era lì fuori nella stradina chiusa dove è situata Villarot, ha scelto di uscire da quella strada e iniziare a gridare nelle piazze quello che tutta la rabbia che era montata in questi giorni dopo lo sgombero, tutta la rabbia che si vede contro quei muri che murano le finestre adesso. Certo, continua pure. Da allora è stata lanciata ieri pomeriggio in un'assemblea pubblica sempre partecipata, nonostante il freddo e la pioggia fuori dalla villa. È stata lanciata una campagna che si chiamerà Villarot non si tocca, i bisogni non si sequestrano, La campagna porterà una grande mobilitazione cittadina il 1 febbraio, in cui studenti, artisti, persone normali, mamme del quartiere manifesteranno in città contro la chiusura degli spazi sociali e culturali. Certo, senti, una cosa che ritornava molto negli sfoghi, così negli interventi seguiti allo sgombero di Villa Rotta, era un po' la totale assenza di spazi di aggregazione, di ritrovo per i giovani all'interno della città di Bari. Molti facevano appunto il quadro di una città che vive un po' solo di eventi turistici o comunque in determinate date, ma che per il resto ha poco da offrire ai giovani. In questo senso forse si spiega anche un po' la risposta molto partecipata che ne è seguita. Certo, ma la villa ha creato un nuovo modo di fare socialità all'interno di una città che è abituata ad aver bisogno di 10 euro in tasca per andarsi a vedere un concerto, piuttosto che, non so, banalmente uno studente che non può permettersi di spendere più di una 5 euro in una serata per andare fuori con gli amici, spesso resta a casa perché non se la fa. E può sembrare banale, ma è stata forse questa la cosa che più ha creato forza all'interno della villa, che c'è stato un posto finalmente in questa città in cui i gruppi emergenti potevano presentarsi in assemblea e proporsi di suonare, e gli veniva dato spazio, così come grandi artisti che sono passati dalla villa hanno deciso di non prendere, magari di non chiedere il cachet solito per diciamo sposare la politica che avevamo scelto, cioè quella del contributo libero. Ogni evento della villa non ha mai avuto neanche una minima sottoscrizione, c'è sempre stata la nostra volontà di stimolare la responsabilizzazione dei singoli verso un'esperienza, e questo è stato vincente, perché poi la gente si è creato veramente un senso di appartenenza verso un'esperienza, non solo verso un posto, verso un modus operandi nuovo che questa città non aveva mai visto. Sì, infatti una cosa insomma un po' particolare del fatto che le indagini della procura si siano indirizzate verso un tentativo di dimostrare che quello spazio fosse sostanzialmente uno spazio a fini di lucro, che insomma un impianto giudiziario assurdo, ma che vorrebbero dimostrare con una serie di decine di intercettazioni telefoniche che sono state fatte nei confronti degli occupanti, insomma di chi partecipava a quell'esperienza, appunto non venivano contestate tanto le attività che c'erano lì dentro, ma probabilmente perché questo sarebbe stato particolarmente complicato, ma appunto si tenta sempre di ricondurre tutto comunque a un circuito economico, che invece è proprio quello contro cui si cercava di andare, da quello che dicevi tu. Esatto, ma fortunatamente diciamo anche la pubblicazione delle intercettazioni è stata assolutamente accolta da tutta la massa solidale cittadina in una maniera, cioè esattamente come l'abbiamo accolta noi. Non c'è stata una voce che diceva: ah no, ma loro compravano il Campari, perché tutti quanti sapevano che, perché di questo si tratta, cioè nelle intercettazioni si parla di una cassa di 190 euro in netti dopo una cena sociale, cioè di questo si sta parlando, per cui tutta quanta la massa cittadina è stata indignata dalla pubblicazione di queste intercettazioni, che non dicono niente di nuovo, cioè dicono che uno spazio sociale per autoalimentarsi ha bisogno di autofinanziamento, e quindi questo è quello che si faceva all'interno delle serate. Dopodiché non è ovvio a tutti. Sì, ma è ovvio anche da quello che viene fuori da quei discorsi, che nessuno ci ha mai lucrato lì dentro. Tutti lo sanno, ed è chiaro non solo a chi è passato dalla villa, ma anche da chi ne ha sentito parlare. Fortunatamente diciamo, il fronte legalitarista che avrebbe dovuto intervenire mediaticamente rispetto a questa cosa si è assolutamente sgretolato sotto l'importanza sociale e culturale che ha avuto questa esperienza. Va bene, Giulia, io ti ringrazio. Dai microfoni di Radio Blackout non possiamo che mandarvi insomma un in bocca al lupo per tutte le prossime iniziative. Insomma, hai già lanciato la data del 1 febbraio, quindi torneremo sicuramente a sentirci con gli aggiornamenti dopo quella giornata. Un'ultima certo, cosa che pure. Avevo dimenticato di dire, le forme di solidarietà sono state assolutamente varie, dalla presenza fisica ai legali che ci sono offerti, a una casa editrice indipendente con cui abbiamo lavorato al progetto della libreria sociale, che ha cominciato, ha diffuso una petizione cittadina online, estremamente partecipata, e che non è, diciamo, la nostra voce rispetto a questa questione, ma che comunque lo Stato attuale delle cose ha raccolto quasi 1000 firme che riconoscono fondamentalmente la valenza sociale e culturale della villa dentro Bari. Quindi invito chi abbia voglia a partecipare a questa petizione. Va bene, allora rigiriamo anche noi l'invito, ti ringraziamo ancora, a risentirci presto. Grazie a voi. Un saluto, buona ciao. Giornata. Allora, questo per quanto riguarda Bari, facciamo un breve stacco musicale, poi proseguiamo con l'ultima parte della puntata. Gente cosa fa? Pioggia sempre, sono qua. Fredda e gelida città. Ho perso gli anelli ma mi restano le dita. Questa gente cosa fa? Pioggia sempre, sono qua. Fredda e gelida città. Ho perso gli anelli ma mi restano le dita. Sono gli eroi, gli dèi e i loro servi. È un mondo che fa gara di portarmi giù dai vermi. Qua mi giochi i nervi ma ne va di tutta la mia integrità. E poi basta con sta scusa di essere pazienti. E pioggia sempre, la senti, mi avverti. Esci per la strada e ti allerti. Mentre cerco tracce dei dispersi. Mentre questa pioggia che non smette manda all'aria i miei discorsi. Come pezzi sparsi in una città che stritola. Dove la gente rosica e l'invidia che ti strangola da vita da altri scarsi, stanno tutti quanti accomunati dal destino di fregarsi, come timo tutti pazzi, irrate qua e che s'era detto de fai mezzi, e invece c'è chi arriva e te se fotte gli spazi, alla faccia come il culo di indignarsi, se ti incazzi o sblocchi, e intanto tira su un palazzo a blocchi, ghiaccia negli occhi e pioggia sempre, io sto a tocchi, troppi tornano corrosi o con i sogni corrotti, da uno stato di ipnosi che non sta, e troppo non sta, e il conto non va mai in pari, fra banchieri e palazzi in aria, hai pagato per il sole, t'hanno dato solo temporali, è una sensazione a pelle di presa per il culo perenne, è già pioggia sempre. Questa gente cosa fa? Pioggia sempre, sono qua. Fredda e gelida città. Ho perso gli anelli ma mi restano le dita. Questa gente cosa fa? Pioggia sempre, sono qua. Fredda e gelida città, ho perso gli anelli ma mi restano le dita. Manco una chiave ma l'istinto in me sente la fame, ucciderebbe le persone per il pane. Pioggia sempre, star da soli non conviene. La tessera per fare quello che mi pare, il sangue nelle vene. Il costo della vita scende a zero tra le iene. Che cosa mi rimane? Un odio che non colma le lacune. Cammino su una fune d'ogni calcolo, in confusione. Sputo insetticida sul fastidio che si insinua negli orecchi. Il gioco delle distorsioni e degli specchi. Mille ferite, mille occhi, ma zero sbocchi. È un mare in cui te la comandi, solamente dove tocchi. Guai belli grossi, morsi e discorsi. Muratura che poi crollano quando ti bocchi. I primi schiacciano i secondi, ne reso conti, ed anche se non ce n'hai molti, quel che vogliono i tuoi soldi. Schivo la fortuna con la luna in sagittario, e per comprare calma pago caro, in questo tram tram dove tutto è denaro. Non so dove vado e se precipito comunque me la cavo. Pioggia sempre, io vado, correndo e rotolando come un dado, cercando di salvarmi, alzarmi sopra il risultato. La fine della pioggia nel cuore avvelenato. Questa gente cosa fa? Pioggia sempre, sono qua. Fredda e gelida città. Ho perso gli anelli ma mi restano le dita. Questa gente cosa fa? pioggia sempre sono qua. Fredda e gelida città, ho perso gli anelli ma mi restano le dita. Ma adesso è solo pioggia sempre, dal cielo sulla mia pelle, perle, gemme, come lacrime da una città che giorno dopo giorno sanguina. Ma adesso è solo pioggia sempre, dal cielo sulla mia pelle, perle, gemme, come lacrime da una città che giorno dopo giorno sanguina, sanguina, sanguina. Questa gente cosa fa? Pioggia sempre sono qua. Fredda e gelida città, ho perso gli anelli ma mi restano le dita. Questa gente cosa fa? Pioggia sempre sono qua. Fredda e gelida città, ho perso gli anelli ma mi restano le dita. Yeah, forse sei tu che sei matto. Non conosci Fritz il gatto, non conosci Bassi. Connessione dal giorno uno, baby, check it. Viviamo vite distratte, sintesi piatte del modo che abbiamo di porci. Se ti disintegri d'arte, metti da parte l'orgoglio, poi non te ne accorgi. Disadattati col suono più scuro, scrivo di fatti che non sa nessuno. E ci basta un o magari un yeah! Per farci resistere al numero uno. Era un sogno da ragazzo ma mi accorgo che già molte cose sono andate in fumo. Forse l'età non mi permette più di essere oggettivo sui fatti. Mi ricordo che eravamo a malapena ragazzi. Quando mi concentro e penso a quello che abbiamo visto negli anni, rido un po' triste ma un po' felice per quando mi passate davanti. Ogni cosa a suo tempo mi dicevate, ma alla fine non ho mai fatto quello che mi hanno detto gli altri. Come brilli in questo cielo non c'è più spazio. Erano stelle sul nero ma adesso è tutto bianco. Non è che faccio il nostalgico, so che quando canto un classico italiano sul tuo schermo come Borotalco. Su con Fritz il gatto, tipo dal 9-4, passati dal 9-50 tractor. Abbiamo visto giovani fregati dal contratto, indipendente pacco, grandi passare da un grande palco, un 4x4. E non intendo il fuoristrada, capisci ogni mia rima se conosci la masnada. Le botte fuori dai locali dopo una serata, le lotte coi gestori dei locali per i soldi dopo una serata. Viviamo vite distratte, sintesi piatte del modo che abbiamo di porci. Se ti disintegri d'arte, metti da parte l'orgoglio, poi non te ne accorgi. Disadattati col suono più scuro, scrivo di fatti che non sa nessuno. E ci basta un o magari un per farci resistere al numero uno. Metà di noi non aspettava altro che la gente lo riconoscesse per strada. Ma la vita è strana, l'altra metà, a me compreso, continua a preferire chi non se lo caga. La fama non l'ha fatto mai per quelli come noi, già cresciuti senza peli sulla lingua tra finti miti ed eroi. La musica è stata la sola ed unica via, lo riconosci perché ascolti e ti sale la nostalgia. Troppo troppo i nuovi gatti che mi tengono in competizione, non mi sono mai sentito superiore. Dez amore, non presto molta attenzione ai commenti, faccio la mia visualizzazione, poi cambio canale, sì signore. Figli dei 90 o meglio loro fratelli, la tensione tanta sempre fino sopra i capelli, con la promessa di stare più rilassati e di permettervi di crescere cullati tipo mami e papi. Ma forse non ci avevate capiti, ci avete dato dei profeti, dei venduti o peggio dei falliti. Scavo fosse come un cazzo di becchino, come ai tempi delle fosse. Non fai un cazzo quando rimo, yeah. Quando rimo, quando rimo, quando rimo, quando rimo. Stai ascoltando il mio messaggio, parla al cielo con gli occhi. Progetto polpastrelli sulla strada che tocchi. Via 90 Ceneto, sempre nello stesso posto. Il marchio della City non lo scolli di dosso. Cerco uscite in una porta disegnata sul muro. Gioco con lo stesso schema, con la faccia da duro, con la faccia di chi crede che qui niente è al sicuro, con la rabbia di chi ha preso 10.000 vaffanculo. A volte mi chiedo perché siamo venuti qua, la voce della gente della nostra città. Poi mi chiedo tra 20 anni di che cosa resterà. Ho parlato col futuro e lui ha parlato con Fra. Ho come l'impressione che oggi il cielo va giù. Scrivo ancora con la penna, troppo cielo su di noi come in pace e guerra. Dedicata ad ogni stella sul cielo di Ballarò. Cadete sul cemento che calpesterò. Questo è il marchio della city e non lo togli di dosso. Tutto ciò che hai fatto non può essere rimosso. Oh, tutto questo sei tu. Oh, questo è il marchio della city e me lo vedi addosso. Tutto questo sono io senza alcun rimorso. Oh, tutto questo sono io. Oh, sto guardando le foto, ogni centimetro fa parte di te. I segnali e le linee mi ricordano te. Ciò che puoi essere nessuno raccoglie. Pare voglia dormire sulla pancia delle foglie. Mille bandiere, portoni e galere. Vorresti andare dritto con la pace di avere. Ma lì fuori è trincea certe sere. I muscoli colpisci e sorreggi. Vuoi un cuore perché ovunque proteggi. Magnetico, non puoi restare sempre sul tetto. Tenerti stretto un angolo perfetto. Se non ci pensa Dio, ci penserà l'architesse. Non ci penso io, so già quanto scommettono. Mai vergognato dei diritti della causa, dei mobili della casa, nemmeno di fare pausa. E fumo uno alla vostra salute. Mentre la radio informe, la scena si chiude e tutto il resto va così. Questo è il marchio della city e non lo togli di dosso. Tutto ciò che hai fatto non può essere rimosso. Oh, tutto questo sei tu. Oh, questo è il marchio della city e me lo vedi addosso. Tutto questo sono io senza alcun rimorso. Oh, tutto questo sono io. Oh. Andare via che ti può cambiare vita, smontare tutto, dovessi prendere un mitra, porto il tesoro del mio tempo e noi ci siamo persi al momento dove non ci sono luci, contento e più si esce di scena e più ci si incatena, solo per stare più tranquilli e con la pancia piena, aprimi le braccia, convinciti, sbattici la faccia, convinciti che questa è casa tua, boy. Questo è il marchio della city e non lo togli di dosso, tutto ciò che hai fatto non può essere rimosso. Oh, tutto questo sei tu. Oh, questo è il marchio della city e me lo vedi addosso. Tutto questo sono io senza alcun rimorso. Oh, tutto questo sono io. Oh, allora torniamo in diretta. Sappiamo che oggi questa per Torino è una settimana gioiosa perché abbiamo 3 nuove occupazioni in città e ci colleghiamo in diretta con Marco dall'occupazione di Via Legnano, una rivendicazione, una riappropriazione opera di studenti e precari. Si stanno un po' radicando in quartiere, stanno cominciando a mettere a posto lo stabile, ma sentiamo Marco dal posto. Ciao Marco, ci senti? Sì, vi sento. Ciao, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Blackout. Ecco, allora dici un po', raccontaci come procede questa nuova occupazione, come ha risposto il quartiere a questa presenza. L'occupazione procede abbastanza bene, dopo i primi giorni di lavori, diciamo, passati un attimo a scrostare, a pulire il posto, adesso ci stiamo un attimo occupando di altri problemi, stiamo tentando di risolvere problemi di acqua e luce comunque, e in breve comunque pensiamo di renderlo tranquillamente, diciamo, abitabile senza grossi disagi, diciamo così. E per il resto il quartiere anche ha risposto abbastanza bene a questa occupazione. Solo stamattina saranno passate una decina di persone che ci hanno chiesto un attimo chi eravamo, che cosa stavamo facendo qua, un sacco un sacco di signore pure che ci dicevano fate bene, comunque questo posto era vuoto da anni, che sono cose piccole che però comunque ci fanno, diciamo, sentire ben voluti in questa zona. E proprio per questo anche domani abbiamo organizzato un volantinaggio con banchetto qui al mercato di Via Legnano, per continuare a farci vedere, insomma, dal quartiere, per farci conoscere un altro po', e tutto questo nell'ottica e nella prospettiva di settimana prossima, appena potremo, di fare una giornata di inaugurazione aperta, quindi a tutti quelli che vorranno passare, dove diciamo faremo vedere il posto e soprattutto organizzeremo qualcosa per il piacere di tutti, insomma. Bene, allora ricordiamo che c'è una pagina Facebook. C'è una pagina Facebook che è quella dell'ex lavatoio occupato, che vi invito, diciamo, invito tutti a guardare. E poi vabbè, c'è anche un'altra pagina che è quella comune delle tre occupazioni, che è anche un attimo più organizzativa, che è quella Riprendiamoci la città. E certo, invito tutti a passare comunque in questi giorni, sia domani per il volantinaggio, anche nei prossimi giorni per un saluto, e a portare solidarietà sicuramente, e forse anche qualche mobile se ci esce, qualche sedia. Bene, bene, allora noi giriamo l'invito a tutti e tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio, che sicuramente passeranno con gioia, e soprattutto immagino invitiamo a rimanere sintonizzati sulle due pagine Facebook di cui hai parlato tu, una Riprendiamoci la città e l'altra Ex Lavatoio Occupato, per rimanere aggiornati su eventuali iniziative. Bene Marco, grazie mille. E buon lavoro, e dalla radio vi facciamo un in bocca al lupo e un saluto grande. Crepi, grazie. Ciao. Ciao Marco. Marciano, Johnny Mazzia, Baracuda, Killa Soul, al limite struggle baby, bella zotta. Tuglic Studio, Baracuda FM, PC3. Sei. Come alzami in cuffia, spacco da prima di faccia, libro in faccia rido, il fittibito, infastidito, partorito, un altro libro in rima del tuo preferito, infatti scrivo ad ogni figlio che basito, ha preso il primo volo, poi si è trasferito. Passano gli anni, scandisci attimi sui palchi, ho dato tutto ad ogni figlio mio che ho visto supportarci. Pensione mica icone, ci trasmettete emozione, non parlo con Buscetta ma Francisco come Falcone. Guardo negli occhi ogni persona del mio movimento, non mi nascondo qua perenne sbattimento. So bene quanti fanno ride, bene quanti sanno ride, anche se piangono. Proteggo PC Fan come pentato, l'arma mento che viaggia contro vento, non lecca il culo e la conferma sta sul rappresento. JM rock and roll, a voi vi voglio più vicini, con l'incubo dei finanzieri e il mito per i bilanci. Emozione solo quando sto sul palco, sensazione che sta dando forza a chi m'accanto, sarà che stiamo rivoluzionando sto rap. JM, Killa Soul, Zotta, Baracuda Fam. Provo emozione solo quando sto sul palco, sensazione che sta dando forza a chi m'accanto, sarà che stiamo rivoluzionando sto rap. JM, Killa Soul, Zotta, Baracuda Fam. Pensavi che cascassimo, fanculo, torniamo più cazzati con la fame del digiuno. You know, mi hanno detto che volevi farci fuori, ma in realtà non avevi visto che eravamo tori. Papà Baracuda Fam, al limite strano, stappiamo shampoo pure con i piedi nel fango. Io mai fatta carica, no, non ho nell'emosino, siete voi che cadete come tessere del domino. Mi arrampico come sull'Himalaya, tanto che sdraia, papà vamos alla playa, Morfaia. Ascolta, Marciano Rack, JM, Zonda, sulla track, click bang, vecchia maniera, rapo d'oro miniera. Pure se vivo spesso in miseria, ho fatto quello che dovevo fare, basta, rimanendo a testa bassa e spingendo la roba seria. Provo emozione solo quando sto sul palco, sensazione che sta dando forza a chi m'accanto, sarà che stiamo rivoluzionando sto rap. JM, Killa Soul, Zotta, Baracuda Fam. Provo emozione solo quando sto sul palco, sensazione che sta dando forza a chi m'accanto, sarà che stiamo rivoluzionando sto rap. JM, Killa Soul, Zotta, Baracuda Fam. quando cominciai era già tanto che qualcuno s'assorbisse i miei 20 minuti di freestyle in piazza, ghetto blasta, zero plastica, avevo niente ma era come bere il cielo in tasca, mentre il treno passa, coi finestrini coperti d'argento, rifletto sul tempo che non basta, per ogni fero masta, che ha dato tanto e non per chi si fa chiamare masta, ma sta meglio dietro al banco. In culo a sti falsi moralisti del rap, quali hater sono solo poveri cristi per me. Sono fuori per i miei, per chi rispetta e per chi crede in noi. Chi ci vede come loro, mica come eroi. Tu fai come vuoi, di ciò che vuoi oppure contami. Tra chi ci mette passione come Zontal Beat, lo sa Rack, lo sa Marciano, lo sa Arnetura. Abbiamo spalle larghe, palle dure, fior e parro. Emozione solo quando sto sul palco, sensazione che sta dando. Forza chi ma canto sarà che stiamo rivoluzionando sto rap. JM, chi la solzo da barra cruda fam. Provo emozione solo quando sto sul palco, sensazione che sta dando. Forza chi ma canto sarà che stiamo rivoluzionando sto rap. JM, chi la solzo da barra cruda fam. E allora eccoci, torniamo a parlare di università da dentro ai suoi confini fisici, perché diciamo, abbiamo saputo che il 24 il Dipartimento di Medicina dell'Università di Torino terrà un convegno dal nome L'inizio della vita, luci ed ombre. Questo è sostanzialmente un convegno sponsorizzato e rivolto a movimenti per la vita, associazioni pro life, operatori della pastorale sanitaria e centri di aiuto alla vita. Ecco, siamo rimaste un po' agghiacciate quando abbiamo visto questo manifesto, perché ha questo titolo assolutamente ambiguo, con questa scritta rossa che troneggia convegno scientifico. Ecco, noi sappiamo che nell'antiabortismo di scientifico non c'è nulla, e soprattutto la domanda che ci facciamo è: come mai un'università per cui paghiamo profumatamente una formazione scadente si permette di ospitare una cosa del genere sotto al cappello di scientifico, dando anche 5 crediti a coloro che frequenteranno? Sì, tra l'altro ovviamente non manca il patrocinio della regione, che sappiamo in prima linea nel finanziare le organizzazioni pro-life, soprattutto da quando il governatore Cota si è insediato, quindi insomma nulla di nuovo. Certo, il fatto che un incontro del genere avvenga tra le mura universitarie è particolarmente grave, insomma vedremo se ci sarà modo di organizzarsi per portare magari la degna accoglienza a questi signori. Comunque l'appuntamento appunto il 24 gennaio, tra pochi giorni, alla facoltà appunto di medicina. E niente, questo è solo un piccolo così stacco per informare anche sempre di quello che avviene appunto tra luci e ombre dell'università. E ne approfittiamo anche per mandare un saluto a Valeria che ci sta ascoltando e che ci ha scritto. Noi vi lasciamo ancora un po' di musica, poi andiamo a fare l'ultima diretta prima dei saluti. Shawn Michael Strange. To Palermo. Everybody. Tremano le gambe a Stefano, legano mani a Marinelli, quelli della stradale col manganelli, spari all'autogrill, yeah. E le mazzate nei tornelli, soliti in divisa con le fiamme nei cappelli, proprio quelli, imprenditore con la corda al tetto, disoccupato col grilletto al petto, stato che guarda e te lo manda per 2 giorni in video, sono cazzate su cazzate lontane dal democidio, io decido proprio poco, stracci bottiglie fuoco, lanciate sopra il tuo gioco, Italia umano mandante per dire poco, per ste madri con le lacrime perenni al viso, bramano giustizia per il loro figlio ucciso. Non vedo pace né amore, ma solo persecuzione a persone che torturate senza alcuna ragione. Ed è per questo che odio la repressione, false accuse senza scuse e la giustizia della mia nazione. Al vostro ordine non credo, ogni divisa la rinnega, ad ogni vostro omicidio c'è un alter ego. La legge è uguale per tutti e non me lo spiego, perché spari senza cuore e non distingui più il falso dal vero. Cucchi, Aldrovandi, Giuliano e Sandri, famiglie che rimpiangono le vite per i vostri sbagli. E solo appagli senza prove inconfutabili, non basteranno i fiori per i nomi sulle lapidi. Le le vite perse come l'acqua nei deserti, e che ci serva ad esempio per chi traccia i vostri intenti. La ragione del più forte abbatte chi non gli serve, è questo che vi distingue dall'uomo delle caverne. La gente inerme dentro i vostri schermi lascia sogni calpestati, dona i fili ai vermi, dentro celle come gabbie per uomini come bestie. La loro democrazia che spacca le nostre teste, la legge spara come una 38, se porta i profitti a galla nasconde le scorie sotto. E la ragione di uno stato che ci fotte, cedendo commissariati al giustiziere della nostra. R.I.P. to the people no longer here. R.I.P. for all of you I shed a tear. R.I.P. why did the good die young? You gotta prepare for when your time coming, yeah. R.I.P. I keep you in my heart forever. R.I.P. the world becoming hard to measure. R.I.P. you gonna be never regret all the time we had together, I'ma never forget it, yeah. Non credo più alla giustizia, allo stato, se per ogni finta perizia c'è un omicidio insabbiato. Fanculo, il tricolore ormai è sporco di sangue, ma non credo alla bandiera se lo sbirro è latitante. Qua il governo comanda ed il lavoro mi manca, se mi sparo un colpo in gola è un omicidio di banca. Alleati ad Equitalia, ogni rima equivale ad ogni suicidio di stato commesso in Italia. Per ogni morto senza nome, senza funerale, un'altra rima che faccio senza parlare. Per ogni uomo che riposa tra lenzuola profumate, 10 stelle nelle celle sono morte trapelate. Ho conosciuto dei ragazzi, non faccio la scuola, il settimo piano di lettere ti divora per fottute regole in ombra, fanno le tenebre in onda, la trasmissione del malessere, non cedere, non chiedere mai nulla, così mai ti verrà chiesto. Parlantina facile porta sotto processo, ma a disposizione resta con le tue persone, poi banchetta cucinando gli altri nel tuo pentolone. Rompi le barriere nei discorsi di facciata di chi vuol nascondere la verità con quell'aria sfacciata. Ho il filtro per la merda finché vivo in strada, gli occhi ben aperti intorno a gente armata. Troppe cravatte e camionette, la tensione sale e scende, tra chi è sporco di cemento e non guadagna niente, tra chi ha pagato per studiare e sta dentro un call center, tutti con l'estintore in mano. Basta il filo per le pacche, sì, i complimenti, stai nella tua vita con lo stress tra i denti, lo stop, le patenti, il tetto fa brutto, ti fumi gli argomenti per scordare tutto, una domenica bestiale, la finta morale, c'è chi decide regole, il distacco sociale, la storia, la preda, chi se ne fotte se dissoci dal collega, se non denunci ti piega. Ho gli occhi rossi e sono fuori certe notti, storie di rap e cannoni con i picciotti. Non ho mai preso un coltello, ho preso cazzotti. Se sei una bestia cosa cazzo ti confronti? Parlo con le mani nelle tasche gelate, la vita stringe i tempi, manganelli e timpulate. Vorrei scordare tutto ma non posso, non vale, questo circuito è chiuso, play rec, girare. Vorrei portare in giro frammenti di verità, ma in giro sono spenti i lampioni delle città. E a volte tutto sembra uguale, la tua storia si sa, come essere liberi al commissariato libertà. R.I.P. to the people no longer here. R.I.P. for all of you I shed a tear. R.I.P. why did the good die young? You gotta prepare for when your time coming, yeah. R.I.P. I keep you in my heart forever. R.I.P. the world becoming hard to measure. R.I.P. you gonna be never regret all the time we had together, I'ma never forget it, yeah. R.I.P. yeah. R.I.P. Shawn Michaels. R.I.P. R.I.P. to everybody no longer here. Everybody we lost in the struggle. R.I.P. to the street. R.I.P. from New York to Palermo. My heart go out to everybody who feel pain, you know? ICC accorsi col plotone, prima di sgomberarci sgomberatevi il cervello, noi siamo la comunità, toglietevi il cappello. Lo so, lo sai, la rabbia monta ondate, si incendiano le strade, ora basta cazzate, anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, oh. meglio non vedere. Fratelli miei, io solo so la rabbia molto andate. La gente soffre nelle strade, ora basta cazzate. Piene stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere. Roma meticcia, Roma meticcia, Roma meticcia, meticcia, claro che sì. Ce n'è un miliardo qui di stelle, ora facciamo i conti. Noi siamo belli matti come un branco di migliaia di bisonti. Ora tutti pronti, senti che racconti. Dal canalone al babbuino, ai vosci a via due ponti. Togli il respiro qui, ora raccogliamo i frutti. La città è avvelenata, ma non ci ha mai distrutti. E quando scappano tutti, noi mettiamo la ciccia. Ora accendo la miccia di una Roma meticcia. Io metto la faccia e questo cuore sembra di un marziano. Questa banda mette brividi e mi fa artigiano. Con queste mani costruiamo nuovi spazi vitali. Vengo dai medi, dalle sedi, dai centri sociali. Capaci di piangere ancora, grandi emozioni. Abbiamo dei sogni, senza troppe illusioni. Coraggio, siamo artisti. Coraggio agli attivisti, sempre in guerra contro i razzisti, porci post-fascisti. Lo so, lo sai, la rabbia monta ondate. Si incendiano le strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere. Fratelli miei, lo so, la rabbia monta ondate. La gente soffre nelle strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere. Roma meticcia, Roma meticcia, Roma meticcia, meticcia, claro che sì. 12:27, ci avviamo alla chiusura per questa settimana di Parole Ribelli con un'ultima diretta che avevamo già preannunciato ad inizio puntata. Siamo in collegamento con Laura da Napoli. Ciao Laura, ci senti? Sì, vi sento. Ok, un saluto a te. Con te appunto vorremmo un po' farci raccontare di quello che è successo sabato mattina a Napoli, dove era previsto un incontro sul tema della Terra dei Fuochi con il presidente della regione Caldoro e il ministro dell'ambiente Orlando, un incontro che all'inizio si sarebbe dovuto tenere in modo pubblico in una scuola, ma che poi di fronte insomma alle prime proteste è stato prontamente spostato in uno spazio privato, in un liceo privato, per cercare un po' appunto di arginare le prevedibili contestazioni. Niente, ti lascio subito la parola così ci racconti meglio com'è andata. Vabbè, diciamo, innanzitutto non era, cioè già era la seconda volta che questo, diciamo, questo incontro al vertice veniva rimandato, perché diciamo la prima volta doveva essere fatto, come hai detto bene tu prima, in una scuola, quindi all'Istituto Casanova, il 21 dicembre, diciamo, dinanzi diciamo alle proteste, alle promesse di assedio di scuola per respingere i responsabili della devastazione ambientale, diciamo, la conferenza è stata rimandata poi a data da effettuarsi, fino poi a essere spostata in un istituto, nell'istituto universitario del Sorussola, diciamo. Quanto è accaduto in piazza, diciamo, di sotto durante il vertice di Orlando e Caldoro, diciamo, innanzitutto va contestualizzato nel quadro di un'università totalmente braccata e strade militarizzate. E diciamo il ripetersi di un fenomeno e un dispositivo che è identico, diciamo, nelle forme dell'ordine del discorso, si anche è messo in difficoltà dagli sviluppi di cronaca nera e dagli stati di indignazione provocati dal pentito schiavone, cioè il fatto che le istituzioni nazionali e locali, diciamo, continuano a non affrontare le questioni sociali e economiche su quali i movimenti insistono, se non in termini puramente repressivi. Cioè, nello specifico quindi continuiamo a assistere a un accanimento delle tecniche repressive verso quei soggetti che più di altri segnalano questioni puntuali che sono ormai da decenni. Siamo, diciamo, dinanzi alla drammatica proprio scelta di chiudere qualsiasi forma di confronto e decisionalità per individuare delle risposte concrete, diciamo, sia diciamo per le istanze delle rivendicazioni ambientali che passano dall'inceneritore di Giuliano per il ritiro del bando, passano dalla bonifica mancata di Bagnoli e dalla Terra dei Fuochi, ma anche per arrivare a risposte concrete, diciamo, per le istanze dei precari del progetto Bross, diciamo, i disoccupati con i quali siamo scesi in piazza il 18. Diciamo che il percorso di lotta dei precari Bross è strettamente legato alla questione ambientale e soprattutto rispetto all'affare bonifiche, e questo sicuramente è oggetto di interessi di imprenditori. Quindi su questa questione, diciamo, detto proprio onestamente, o diciamo con i disoccupati che da anni lottano su questa questione, o siamo gli interessi del capitale imprenditoriale. Quindi diciamo proprio questo governo e il ministro Orlando giocano al rimpiattino da mesi sulla pelle dei disoccupati napoletani, convocando e rinviando tavoli interistituzionali e diciamo promettendo e puntualmente diciamo disattendendo alle promesse mancate. Diciamo sicuramente ci sono alcuni punti essenziali sui quali diciamo non si può sorvolare. Sicuramente per noi la lotta dell'ambiente non è sicuramente diciamo una lotta che riguarda solo le tematiche ambientali, ma che riguarda diciamo un miglioramento concreto delle nostre condizioni di vita. Pensiamo che diciamo non siamo diciamo riusciti a impedire la passerella del ministro Orlando e caldore a Napoli, e diciamo che si è inquinato, però diciamo ci teniamo a ribadire con forza, come abbiamo sempre fatto in questa città, respingendo questi personaggi, che chi è inquinato diciamo non deve parlare, ma deve assolutamente pagare. Diciamo l'articolazione concreta di questo slogan nei territori può essere portato ad esempio il caso di Giuliano, diciamo che non so se diciamo tutti sono al corrente del fatto che in questi giorni si è data a Giuliano un meccanismo di assedio del comune, diciamo basato sulla questione della TARES, la tassa sui rifiuti, che diciamo in una terra martorizzata dalla devastazione ambientale la più alta d'Italia. Quindi diciamo si è dato un meccanismo di assedio a quel comune con diciamo una pretesa forte da parte dei cittadini sulla diminuzione di questa tassa, un meccanismo che sta avendo successo e che può sicuramente essere riproducibile, che per noi diciamo risponde appieno a quello slogan di chi è inquinato deve pagare, che diciamo le nostre condizioni di vita migliorino immediatamente su questi territori. Quindi diciamo ci teniamo a portare avanti l'istanza del ritiro del bando dell'inceneritore di Giuliano, perché diciamo forse i comitati che si sono seduti diciamo dentro alla sala del Foro Orsola a parlare con Caldoro è un punto sul quale non hanno battuto in maniera efficace, a maggior ragione il fatto che c'erano persone fuori che non sono riuscite ad entrare, non sono riuscite a portare il loro punto di vista. Quindi diciamo sedersi a parlare con il ministro Orlando, quando diciamo lui è uno dei principali responsabili insieme a Caldoro delle nostre condizioni attuali, sicuramente diciamo non è quanto di più giusto ci sia, diciamo, secondo la nostra opinione diciamo questi personaggi devono andare via dalla nostra regione, devono dimettersi e diciamo effettivamente redistribuire la ricchezza diciamo a tutti quanti quelli che ogni giorno vivono queste condizioni di devastazione ambientale. Non so, sono stata un po' vaga, ho detto tante cose perché veramente diciamo la questione è complessa. Certo. Si sono in atto diciamo la questione di Giuliano è in continua evoluzione, diciamo ci sono cortei che si autoconvocano spontaneamente giorno dopo giorno, c'è veramente diciamo un fermento in quel comune, diciamo dove le contraddizioni con l'inceneritore e la tassa TARES diciamo sono esplose. Speriamo che questo meccanismo si riproduca in altri comuni e che quindi si riesca a generalizzare su questo campo. Sì, assolutamente. Questo è quello che ci auguriamo. Anche il fatto appunto che la componente più studentesca abbia scelto appunto di inserirsi in questo quadro di fermento sicuramente positiva, appunto come dicevi tu. La componente studentesca diciamo è da inizio settembre che batte su questo punto e che nelle scuole diciamo parla di diritto allo studio, così come parla di diritto alla vita, così come parla di diritto all'ambiente. Nell'autunno diciamo gli studenti hanno formato una piattaforma diciamo contro l'inceneritore, proprio diciamo sono andati dritti all'assessorato all'ambiente a portare le loro istanze autunno, quindi diciamo c'è un grosso protagonismo da parte degli studenti sulla questione ambientale, che sta dato con le lotte decennali dei disoccupati e con diciamo l'indignazione vera e propria di tutti coloro che si vedono sottratti il diritto alla vita ogni giorno, sicuramente può portare a qualcosa di concreto, però sempre diciamo è solo nel solco della chiarezza, cioè diciamo che la controparte è una sola, è chiaro, o si sta con la controparte o si sta contro, diciamo, e questo per noi è fondamentale, non diciamo secondario, perché interloquire, parlare, diciamo sedersi al tavolo con i responsabili delle nostre situazioni diciamo per noi non è sicuramente una priorità, ma è priorità quella di cacciare queste persone e di costruire un modello alternativo di gestione dei nostri territori. Certo, noi insomma ti ringraziamo, sei stata molto completa, rimandiamo a prossime puntate insomma per nuovi aggiornamenti su questa situazione. Nel frattempo appunto ti ringraziamo, a risentirci presto. Di niente, ciao. A presto, ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Abbiamo fatto le 12:34, quindi ultimissimi minuti a disposizione di Parole Ribelli. Noi vi lasciamo ancora a un po' di musica, poi ci prepariamo per salutare. Io non lo so se il tempo che spendo è perso, il fiato che spezzo. Forse per il successo, forse per parlare di ciò che mi è successo. Scrivere e buttare fuori è come vomitare sul cesso. Ogni sbronza di vita stronza mentre sprofonda sabbia nella clessidra. Resto e metto tutto in questo. Tu chiamami folle come il colle, capo di me stesso e me stresso. A volte mi sono perso, ma per ritrovare un uomo diverso questo mondo mette a tutto un prezzo. E non è tempo perso, come quando butto un pezzo. E ho paura di rimanere senza nulla in mano. E mi ripeto che ho un piano, dai. La strada è dura, non sarà tutto vano. È la sola via che abbiamo. Vai, vai, vai. Chiedimi se so com'è che gira il mondo. Chiedimi di quanto so, quanto nascondo. Se vuoi rispondo, a me non cambia niente. Vedremo se poi in fondo vuoi saperlo realmente. Chiedimi se so com'è che gira il mondo. Chiedimi di quanto so, quanto nascondo. Se vuoi rispondo, a me non cambia niente. In fondo vuoi saperlo realmente. Io sono un cane che rincorre le macchine. Se le prendessi non saprei cosa farmene. E ne ho dovute versare di lacrime prima di capire che dovevo scriverne pagine, pagine, pagine ancora di questi testi che svuotano il cuore. Ma il mondo li ignora e queste parole mi bruciano in gola finché non le sbatto su carta. Proiezione di una vita nuova. Certe volte chi mi ama non comprende. Dice che il tempo che spendo nessuno me lo rende. Eppure se gli chiedo al posto mio cosa farebbe, la risposta è sempre quella. Non lo so come sempre, ma io continuo così perché mi serve scrivere di me. Intanto ci hanno scritto, avvertiamo tutti e tutte. Cisti, Vigili Carogne, Corso Regina, quasi angolo Corso San Maurizio, direzione Po, e anche Municipale Via Nizza, altezza stazione. So com'è che gira il mondo. Chiedimi di quanto so, quanto nascondo. Se vuoi rispondo, a me non cambia niente. Vedremo se poi in fondo vuoi saperlo realmente. Chiedimi se so com'è che gira il mondo. Chiedimi di quanto so, quanto nascondo. Se vuoi rispondo, a me non cambia niente. Vedremo se poi in fondo vuoi saperlo realmente. Chiedimi se so com'è che gira il mondo. Chiedimi di quanto so, quanto nascondo. Se vuoi rispondo, a me non cambia niente. Vedremo se poi in fondo vuoi saperlo realmente. Le 12:37, noi allora vi salutiamo, qui c'è Maurizio che scalpita per mandare in onda il GR, per cui vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle frequenze di Blackout. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento come sempre a martedì prossimo con Parole Ribelli. Un saluto a tutti e a tutte da Francesca e Eddie. E vi lasciamo con lo spottino di presentazione dell'incontro che ci sarà questo venerdì qui a Radio Blackout. Sì, buon ascolto. Ricordiamo che ci sarà adesso un ciclo di presentazione di libri, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati. Questo è lo spot del primo incontro. A martedì prossimo, ciao a tutti e tutte.